Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Gli sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. Always thinking that I couldn't do better than this girl who stuck dumb straight on the leather of this disgusting and expensive sofa. Didn't even try to hide it. Ci sono varie domande che le voglio fare di Battista. La prima è molto semplice. A me non me ne fregate niente, però, di Renzi. Di... Niente? Assolutamente. Era proprio questa la domanda. Ma i primi mesi sono stati molto duri, perché nessuno di noi sapeva scrivere una legge, sapeva scrivere un'interrogazione, un'interpellanza parlamentare. Io non conoscevo la differenza tra una mozione e una risoluzione. Anche sono laureato, che ne dica Berlusconi, ho un master in diritti umani, ma non avevo, diciamo, fatto un percorso giuridico. And I could draw a perfect line. Half this town call me Caroline. Say baby, what is yours is mine. Travaglio è coerente perché l'ha sempre fatto. Ha pubblicato le intercettazioni quando riguardavano Berlusconi, continua a fare le intercettazioni che riguardano Renzi. E quindi è coerente. Io non sono assolutamente d'accordo di pubblicare intercettazioni fuori dalla legge. Chi si straccia le vesti oggi, come i deputati del PD o gli esponenti del PD, contro le intercettazioni illegittime, fuori legge, non lo faceva e anzi godeva nel passato quando queste intercettazioni fuori legge riguardavano Berlusconi. Ah, signori, le intercettazioni, mamma mia. Le intercettazioni quasi come la legge elettorale. Oggi andrò in giro con l'amaca di Michele Serra stampata in fronte. La ritaglio, me la stampo in fronte. Questo è il suono di me, così. Per il resto poi non bisogna esagerare. Per l'appunto, l'amaca di Michele Serra me la stampo in fronte, così con un frontino. Diamoci alla contemplazione. Inizia così l'amaca. Non leggo più una riga sulla legge elettorale. Già sarebbe finito questo editoriale, è perfetto. Ha un inizio, una fine, un soggetto, un predicato, un punto. È perfetta questa frase. Poi vabbè, Michele Serra argomenta, no? È pure una rivendicazione. È oltraggioso che un cittadino debba preoccuparsi per un obiettivo che fa parte delle competenze dei parlamentari. Poi non ci si capisce niente della legge elettorale, no? Si capisce solo che è partita e già... No, ma guardate, lasciamo stare l'argomento, insomma. È un po' come ecco la questione intercettazione. Da quant'è? Sono cresciuto con le intercettazioni. Non c'erano ancora i telefoni e in Italia già c'era la polemica sulle intercettazioni. Non ho capito niente. Caro Presidente De Luca, benvenuto nel club. Siamo qui, signori, è venerdì. E a Bratto, Bergamo, ci sono 14 gradi con cielo coperto, pioggia che incombe. Anche a Valmontone, Piero ci dice, ci sono 17 gradi, è diversamente sereno. Grande il nostro Guido, ci ascolta da Puerto La Cruz, Venezuela, 23 gradi, cielo stellato, Mar dei Caraibi calmo. Grande Guido, che bello, lì. E sempre un abbraccio al Venezuela che è un po' in difficoltà. A Borgo Virgilio ci sono 18,6 gradi, poco nuvoloso, 68% di umidità, ci fa sapere Carlo. Lodi, 19 gradi, ciao Matteo. Torino, 15 gradi, ciao Guglielmo. Tangenziale est, 21 gradi, coperto, piovigina, Antonello. A Varese 15 gradi e già diluvia. A Modena 15 gradi, a Ponte Cagnano 17 gradi, frizzantino, ci fa sapere Nicola. Signori, Marino Milan, bulgherino, sì, dell'informazione. Oh, ma la Costa Magna, la bionda Costa Magna, ma quando interviene un po', zio Bono, dai, sempre le stesse, basta. Buona giornata e un abbraccio forte, bulgherino. Ed è venerdì. Lo so, c'è questo signore che mi chiama Editto Bulgarino. Non ho... è straordinario, però devo cercare di capire perché. Comunque, Luisella Costa Magna, buongiorno. Come va? Buongiorno. Non lo so, Editto Bulgarino mi chiama. Secondo te da dove? Boh, non lo so, Editto Bulgarino. No, sono qua, nessuno è Editto. No, ma questo chiama me, cioè non so, mi dice ciao Alino Editto Bulgarino, non lo so, gli piace la rima, però vabbè, comunque siamo con Luisella Costa Magna, un'altra donna lungamente intercettata, si sa. Non c'è niente da intercettare, guarda. Lascia fare, ma quello lo decideremo noi quando vedremo i brogliacci delle tue conversazioni, delle tue conversazioni. Con gli omissis. Insieme a Luisella Costa Magna, cara Luisella, ti presento il senatore che più ti è simpatico, Stefano Esposito, Partito Democratico. Oh, mamma mia! Non mi avevate avvisata. Ah no, Lorenzo Nespoli non ti ha avvisato. Ma perché noi tra torinesi, pensiamo che corra buon sangue? Vabbè, comunque, Stefano, buongiorno. Come va? Buongiorno. Tutto bene? Sì. Sono contento di sentire la Costa Magna. Oh, vedi, era la mattinata con mamma mia, oh. Quindi sarà una grande giornata. Questo non siamo d'accordo, vedi? Cioè inizia così, mamma mia, non è bello essere accolto dalla Costa Magna così, mamma mia anche oggi. No, ma per la verità tra l'altro un po' che non neanche ci vediamo. Neanche, ma infatti, cioè, aspetta a litigare. È un'occasione sufficientemente distante per poter... Infatti, dai, aspetta un po' a litigare. Era una battuta. Ma sappiamo. Allora, signori, apriamo il Parlamento, dai, perché io non ne posso più di queste intercettazioni. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Oggi c'è un'intervista al ministro Orlando, ministro della giustizia, su Repubblica, che per tutta una pagina arzigogola sul fatto che l'intercettazione è illegale, nel senso è illegale che sia stata passata, il giornalista sì, certo, ha il dovere di pubblicare, però la privacy, ci possiamo spaccare la testa contro un muro, ognuno la penserà come vuole. Il dato di fatto è chiaro, che questa intercettazione sia stata passata in modo illegale, con un illecito, questo ormai lo dicono tutti, lo dicono, in maniera chiarissima. Anche ieri Di Pietro ci ha detto, proprio dal punto di vista da magistrato, è illegale passare questa intercettazione che non era negli atti giudiziari depositati. Dopodiché il giornalista che la ottiene cosa deve fare? Cioè chiude gli occhi, c'ha una notizia, deve rispondere ai lettori, che fa? Se la mette in tasca una intercettazione del genere? E lì, dai, spacchiamoci la testa anche noi, forza Esposito, dai, su, spacchiamoci. No, nel senso che tanto ognuno dirà la sua. No, ma io, tanto i giornalisti, guai a chi li tocca, ma lo dico seriamente, se ricevono da chiunque un'intercettazione ghiotta, sì, o anche meno ghiotta, fanno... loro mestiere, io su questo lo dico molto seriamente. L'ultima cosa che dobbiamo cercare di fare è metterci lì a immaginare che dobbiamo punire i giornalisti. Appunto, a proposito di Venezuela o di Turchia, no, il vero tema è che mi piacerebbe che qualcuno facesse una verifica su chi l'ha data. No, perché secondo me ci sono alcuni magistrati le cui indagini, e non trago conseguenze, sì, sono quelle che hanno il maggior numero di fughe di notizie. La tocca piano, senza dire così. Pianino. Ci sono procure porose, chiamiamolo procure porose. Sì, un po' poco con gli stipiti sì, un pochettino. Gli spifferini. Spifferini. E sarebbe interessante fare, ma è puramente pura accademia, sì, sì, sì, per carità. Verificare quanti fascicoli per fuga di notizie sono stati aperti da quella stessa procura e se ne hanno mai trovato uno. Ecco, no, la questione è questa, esatto. Non sarà difficile in una situazione in cui, 10 persone, 15, 20 persone avevano in mano questa intercettazione, li si riunisce tutti in una bella sala, si comincia a dire, allora, dai, qualcuno di noi l'ha passata al giornalista Marco Lillo, cara Luisella, si potrebbe iniziare così, vediamo un po', guardiamoci negli occhi, vediamo chi può essere stato di questi 20 persone, no? No, diciamo che il primo elemento cruciale, a parte apprezzare il rispetto per la stampa di Esposito, che quindi in questo, insomma, gli do atto, dopodiché... torniamo a parlare di intercettazioni e come sempre parliamo sempre del metodo e non del merito. Io vorrei per una volta parlare del merito, di quello che si dice nelle intercettazioni invece della forma, invece ci si ferma alla forma, al di là del fatto che sulle procure porose, anche quelli del PD mi sembrano un po' porosi, visto che quando si pubblicano elementi coperti da segreto che riguardano, che ne so, Marco Lillo pubblicò come primo le cose sulle polizze della Raggi. Vabbè, ma è chiaro. Quando fa comodo l'intercettazione va benissimo, quando non fa comodo è un attacco alla democrazia, ripetendo tristemente non solo gli stessi dibattiti sulle intercettazioni, ma quelli dell'epoca berlusconiana, perché in questo ha perfettamente ragione Brunetta, voglio dire. Abbiamo tutti i dati. Le citazioni, anche Travaglio oggi inizia con una frase che era quella che disse Paolo Gentiloni all'epoca delle intercettazioni con Patrizia D'Addario: le registrazioni ristabiliscono il confine tra realtà dei fatti e pietose bugie. Invece di attaccare la stampa che fa il suo mestiere a Palazzo Grazioli, dovrebbero fare chiarezza. Ma questa Luisella, è un'altra questione, che l'intercettazione va bene quando colpisce il nemico, è politico, va bene per un giornalista, l'intercettazione va bene, il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio e Marco Lillo dimostrano che non guardano in faccia a nessuno, e se le intercettazioni riguardano la Raggi o riguardano Renzi o riguardano la Daddario e Berlusconi, l'hanno sempre pubblicata. Sì, però ci sarà un piccolo problema se effettivamente, adesso tu dici il metodo non conta, ci sarà però un problema se uno si stacca in maniera settica, ci guarda da, non so, dal Liechtenstein, per cui non gliene frega nulla né di Berlusconi né di Renzi. Dice, ma perché un paese in cui una cosa illegale viene fatta e non si scopre chi l'ha fatta? Cioè, allora, il magistrato procederà, c'è stata violazione del segreto, c'è stata pubblicazione illecita, il magistrato ovviamente procederà, il giornalista va dalla notizia. E comunque vorrei che il dibattito su una persona così importante, che è stato ex presidente del Consiglio, che ha il padre attualmente indagato per traffico di influenze illecite, si parlasse del merito. Quello che si dice. Capito Esposito, il merito. Vabbè. Ogni volta noi siamo a discutere sul metodo, non sul merito. Vabbè, ma discutere, discutere perché è un reato, cioè il metodo, quindi... Ma no... Il metodo è un reato. Quando Renzi gli dice non dire che la mamma era ma d'accordo, perché altrimenti interrogano anche lei. E questo sì. Chiunque l'avrebbe detto chiunque. Cosa magna? Chiunque. In che senso? Chiunque. No, ma io guarda. Ma come chiunque, voglio dire, in questo caso bisogna vedere se c'è traccia la giustizia. Non facciamo retorica sull'argomento. Io ribadisco, io mi accontento, siccome in questi giorni, mentre ci occupiamo della mamma, del papà e della nonna, no, di Renzi, roba interessantissima, dall'altra parte dell'oceano, no? La nonna non l'ha intervistata in Fatto Quotidiano. No, al Corriere, vabbè. La nonna di Renzi resta uno dei capolavori di quelli che vogliono dare un giornalismo al Fatto Quotidiano. Ma siccome oggi parliamo del Fatto Quotidiano, ma nel 93 si poteva parlare del Corriere della Sera, non è un problema, io non ne faccio una questione di giornale, ne faccio una questione legata al fatto che il New York Times, il Washington Post... anche senza intercettazioni, ma con dossier che vengono, che escono da qualche parte, stanno mettendo alla corda il presidente americano. Quindi il giornalismo, no, anche con intercettazioni che dicono che sono degli scherzi, sì, ci sono, addirittura, del repubblicano McCarthy che dice Putin mette a disposizione Trump, è un'intercettazione peraltro. You know what? No, no, scusate. ma infatti, guarda, te lo dico con grande franchezza, dal mio punto di vista, il fatto che i giornali facciano questo mestiere è l'esempio migliore che la libera stampa c'ha una funzione, ma va benissimo. Infatti. A me piacerebbe, però, ribadisco, che siccome stiamo parlando di una legge, poi non ci dobbiamo dire che tutte le intercettazioni che vengono fatte, che abbiano rilievo o non rilievo, che siano negli atti giudiziari oppure non siano negli atti giudiziari, devono essere messe fuori. Bene, se quando ci sarà una legge così, che io non condivido, ne prenderemo atto. Ma al momento quella roba lì è una violazione, d'accordo? Sì. Possiamo dire una cosa, scusate, quando escono le intercettazioni sul Washington Post, non si dice il Washington flop, come si dice oggi del falso quotidiano, c'è un tasso di rispetto per l'informazione come vero contropotere che pubblica le cose, e questo è già fondamentale. Il falso quotidiano non c'entra con le intercettazioni, però c'entra sulla fondatezza. Vabbè, ma qui sta... notizie, ma chi se ne frega, è un'altra storia. Il punto è, aspetta Luisella, vediamo, posso trovare il modo, diciamo, di essere d'accordo? No, ma posso finire solo, sono due punti. Là l'ho già detto, cioè c'è il rispetto per la stampa che pubblica le cose. Lì c'è un presidente degli Stati Uniti che interviene e ammette le rivelazioni pubblicate dalla stampa, o comunque ammesso o nega, comunque fa chiarezza, cosa che non succederà a noi, dove dibattiamo se era opportuno o non opportuno pubblicare una notizia. Luisella dice, vorrebbe sapere se che Renzi intervenga e spieghi il senso di quella telefonata, al di là del fatto che questo è accertato, è un illecito il fatto che questa telefonata sia stata passata. Infatti ci ha fatto un lunghissimo post in cui ha spiegato anche dove era seduto mentre la faceva e qual era il senso. Poi alla Costa Magna può piacere o non piacere quello che su questo sì, cioè non è che la spiegazione di Renzi deve essere gradita. Appunto. Però ribadisco, possiamo fino a quando questa è la legge, avere il piacere una volta, e forse questa volta magari ci arriviamo, perché se ne occupa una procura come quella di Roma. Sapere chi è stato. No, su questo anch'io per curiosità una volta lo vorrei sapere. Uno partita anche solo di fargli una multa. Tanto voglio dire, la telefonata poi pubblicata è stata pubblicata, il contenuto c'è, quello non si discute, per cui. Però sapere chi è stato anch'io, una curiosità ce l'ho. Poi dopo gli si dice malandrino o malandrina. Ecco, tutto qua. Andiamo un attimo al traffico, perché poi c'è la notizia politica del giorno. Signori, c'è la notizia politica sulla stampa del giorno, mentre si dibatte di legge elettorale. La notizia è di Silvio Berlusconi e noi la stiamo trascurando. Tra poco. A Milan, io voglio sentire il traffico! Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Il magistrato che ha ordinato l'intercettazione è anche responsabile dell'intercettazione, del viaggio che fa l'intercettazione, quindi il problema è solo suo. E a Roma ci sono 11 Coppe Italia vinte. Grazie Milan, continua pure a guffare, grazie. Alino, sei un bel figo, somigli tanto a Simple Red, ciao. Uè, Alino Milano, hai visto la partita ieri sera? Ti è piaciuta? Forza Juve! Black Hole Sun, won't you come? Wash away the rain. Black Hole Sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Look at the way I've been treated lately, especially by the media. No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more unfairly. Capito, Trump, nessuno è mai stato trattato peggio di me nella storia. Tra l'altro di Trump devo dire questa cosa, caro Stefano Esposito, cara Luisella Costamagna, pare che Trump, così almeno racconta Repubblica, riceva dei rapporti di una paginetta, perché non tiene l'attenzione più di 4 minuti. Quattro, signori, sarà una presidenza spettacolo, chissà quanto durerà, ma sarà spettacolo, ci sarà da divertirsi da matti, ci sarà da divertirsi. Sì, no, vabbè, dilettante alla sbaraglia. Cioè, ma you know what? This is 2 pages, I can't read it. Caratteri, come Twitter, no? Ma sì, ne abbiamo anche esperienza noi diretta di soglie da 140 caratteri. Va bene, signori. Dopodiché, almeno sulla Juventus con Esposito guarda, sulla Juventus io non dico. Stavo pensando esattamente a questo. Io dico a tutti. Non bufiamo, dico a tutti gli juventini, guardate, vi invidio, perché provare l'emozione del triplete come avete fatto voi quest'anno è una cosa che io tutti così. Cioè, tanto noi ci tocchi. Io poi devo darti una notizia. Sì, una notizia. Ma ne devo dare io su Berlusconi, dimmene. No, devo darti una notizia. Guarda, questa è bellissima. Sì. Ieri abbiamo fatto l'audizione in antimafia del presidente Agnelli. Sì. Ah, la presidente Bindi. Sì. Nota. Tifosa della Fiorentina. Ah. È riuscita prima dell'inizio a fare gli auguri per la Coppa. Alla Juve. Beh, per la Coppa. Ma io ti posso testimoniare che si è toccato i maroni. Siamo toccati in tanti, compreso il presidente della Juventus, lo giuro, l'ho visto. Il presidente Agnelli va in antimafia e si tocca le palle. Questo è il titolo. Tutta la nostra solidarietà. Questo è il titolo. Comunque, complimenti. Insomma, fare il triplete è un'emozione che noi non proveremo mai. Gli interisti ce l'hanno fatta, gli juventini ce l'hanno fatta. Bravi, applausi, andiamo avanti. No, vi devo dare questa di Berlusconi perché manca un minuto. Berlusconi sta pensando a una lista d'appoggio a Forza Italia. Una lista, signori, praticamente è la lista Dudu. La lista dalla parte degli animali. Già stimata al 5% la lista degli animali, cioè degli animali. No, cioè non la lista degli animali, la lista. Non ce la faccio, scusa. Luisella, di qualcosa. Ma no, però non c'è niente da ridere. Ma no, c'è da piangere, infatti. C'è da piangere. In questo momento il dibattito sul pro animali, la brambilla. Ma che cosa fanno? Portano avanti i diritti degli animali in Parlamento? Cioè, no. Ma sono quelle operazioni ovviamente di facciata. Ma che funzionano. Certo. Adesso io non lo screditerei così tanto, l'abbiamo visto con l'agnellina Pasqua e di Veron. Ma viva gli animali, ma cosa c'entra? Perché il tema della tutela degli animali non è un tema. Ma certo, ma fare una legge, punto. Non devi fare una lista. Cosa c'è, Stefano? Cosa volevi dire? No, che c'è una grande operazione di marketing, ma puoi fare una prova tranquillamente. Metti a inizio giornata un articolo serio sulla fame nel mondo su Facebook. Metti un gattino, metti un gattino. E verifica quanti, non solo, ma dico, mettono mi piace. Poi metti la foto con il tuo cane o il tuo gatto e esplode il tuo profilo. Gattini, canarini. Come sta Virginia? A proposito, non l'abbiamo chiamata, sta dormendo? Sta ancora dormendo stamattina. È incredibile. La primavera fa degli ottimi risultati. bene, questa è la cosa che ci consola. Comunque la lista Dudu, o meglio la lista dalla parte degli animali, ovviamente si sta occupando di tutto la brambilla, che insomma si occupa di questi temi per Berlusconi. Va bene, saluto Luisella Costamagna, firma del Fatto Quotidiano ma anche della Verità. Saluto Stefano Esposito del Partito Democratico. Senatore, complimenti per il triplete, davvero mi inchino alla vostra strapotenza, alla vostra grande forza e forza il triplete della Juve, dai. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino.